L'una di primavera rimase a osservare i membri maschi del clan dei Wu scendere a uno dalle loro portantine. Hanlin fu il primo a presentare il suo cartoncino d'invito al servo davanti al cancello, che lo levò in alto annunciando l'arrivo dell'onorato ospite. La voce era stranamente familiare. Era forse stato il maestro di cerimonia al suo matrimonio? La sua portantina si mosse. Secondo la tradizione, lei e le altre donne non sarebbero scese all'ingresso principale, ma sarebbero state convogliate direttamente ai cortili interni per scendere solo quando fossero state lontane dalla vista degli uomini. Chiuse subito la tenda, sperando che Porpor non venisse a sapere che era stata tanto audace da sbirciare. Si raddrizzò la gonna e lisciò i capelli. La portantina fu abbassata, la porta aperta. Marionetta aspettava di aiutarla a scendere un passo per volta. Il cortile in cui si ritrovò era più grande persino del grande cortile del suo Laokia, ma ebbe poco tempo di contemplarne la magnificenza, poiché Gioia di Loto guidò subito le donne Wu alla presenza della duchessa. Secondo le usanze, dopo Porpora e la sua cameriera, dovevano sfilare la concubina e la sua serva e poi Luna di Primavera con Marionetta e poi le altre parenti donne. Soltanto quando la concubina si fu inginocchiata, Luna di Primavera poté dare un'occhiata alla sua ospite. Ma come? Aveva una faccia da cavallo! Ed era vero, le donne manciù non si fasciavano i piedi, ma portavano scarpe dal tacco alto a piedistallo per dare lo stesso effetto dei gigli dorati. Oh, era contenta di essere una Han. Quando fu il suo turno di inchinarsi, le tremarono le ginocchia. Già era poco piacevole dover rendere omaggio a una manciù. Se fosse caduta sarebbe morta di vergogna. Con cura recitò i saluti che aveva più volte ripetuto fra sé. Com'è stato gentile da parte vostra invitare le vostre umili serve a una tale augusta occasione, vostra grazia. Il sorriso cambiò la faccia della duchessa. I suoi occhi erano amichevoli. Oh, così tu sei quella che ha fatto bere aceto a tante persone. Ora capisco il perché. Luna di Primavera arrossì, poi non poté fare a meno di aggiungere: «Sono così felice di essere qui. Non avevo mai visto un palazzo e nemmeno Pechino prima d'ora». «Questa è una serata del tutto irrilevante», disse la duchessa con un gesto sprezzante. «Una stupida idea per divertire l'insignificante padre dei miei insignificanti figli». Squadrò la donna successiva. Era ora che Luna di Primavera e Marionetta seguissero la concubina. Com'era stata sciocca a chiacchierare come una gazza. Sua suocera stava aspettando ai piedi delle scale che portavano alla loggia delle signore, tamburellando sulla sua ringhiera con le lunghe unghie color ciliegia. Alzando gli occhi, Luna di Primavera pregò che non le venissero le vertigini. C'erano almeno 9 gradini. Nei cortili ogni stanza era al piano terra. Sentì che Marionetta le prendeva una mano e l'angoscia della ragazza le fece dimenticare la propria. E mormorò: «Ti stai comportando bene, non hai motivo di agitarti. Hai visto che la duchessa ha i piedi ancora più grossi dei tuoi?» Sulla soglia dell'anticamera, in cima alle scale, Marionetta riprese il suo posto dietro di lei e aspettarono entrambe che le serve dei Lan, vestite di seta viola e nera, assegnassero loro una delle molte tavole rotonde a cui sedevano le signore di Pechino, Manciù e Han, servite dalle loro schiave personali. «Vi prego di muovere i vostri gentili passi da questa parte». Seguita a 2 passi di distanza da Marionetta, Luna di Primavera si fece guidare dalla serva, camminando lentamente per timore di inciampare nelle frange del tappeto di seta color orchidea. Aveva la sensazione che ciascuna delle ospiti già sedute conoscesse l'esatto numero dei punti che erano occorsi per il suo vestito, l'esatto peso dell'oro dei suoi gioielli e persino il punto esatto in cui si trovava il suo neo sulla spalla sinistra. Al loro passaggio, risolini e sussurri scoppiettarono come petardi umidi. Che cosa aveva dimenticato? Un orecchino? Aveva una macchia sul naso? Sorrise con difficoltà, tenendo alta la testa e sperando che Marionetta facesse lo stesso, che guardassero pure. Poteva vedere coi propri occhi che quel che si diceva era vero. Le donne di Xuchao erano le più belle. In un qualsiasi pomeriggio si sarebbero potute vedere nella sala delle virtù femminili signore più belle di queste. La terza cugina avrebbe avuto difficoltà a trovare fra di loro anche soltanto una bellezza di seconda classe, tranne Porpor. Prese posto fra le nuore di Lin Tai Tai e, dopo i soliti convenevoli, si voltò per sbirciare dietro la sua sedia attraverso il paravento di legno traforato. Vedeva perfettamente l'enorme giardino, gli uomini che indossavano sete di ogni sfumatura, le serve che correvano da un tavolo all'altro, le luci che guizzavano nella brezza, rivaleggiando con le stelle del cielo. Si ritrasse e il panorama cambiò come per magia, un gigantesco caleidoscopio di forme e colori che si susseguivano gli uni agli altri. Estasiata, si chinò in avanti e si ritrasse di nuovo finché la sorella Lin le chiese che cosa stesse facendo. Oh, la sedia non era del tutto confortevole, ma ora va meglio. Come poteva dire che tutto era una novità per lei, che si sentiva come una ragazza di campagna? Senza farsi notare, si chinò di nuovo in avanti, cercando con lo sguardo felice promessa. Le ci vollero alcuni minuti prima di individuarlo, seduto direttamente sotto di lei. Suo marito sembrava assente, si rigirava distrattamente l'anello al dito e per un attimo lei sospettò che qualcosa non andasse per il verso giusto, ma poi lui si protese per prendere un gambero e rimase coinvolto in una conversazione con l'uomo elegante seduto accanto a lui. Lei sorrise e si rivolse di nuovo alle signore. La duchessa era arrivata alla tavola centrale. Mentre sollevava l'abito di broccato violetto ricamato con gli stemmi del duca, quattro schiave le si avvicinarono premurosamente e le avvicinarono la sedia dallo schienale alto. Era il segnale dell'inizio della festa. Mentre le serve sfrecciavano fra i tavoli, le signore abbandonavano l'atteggiamento formale e presero a chiacchierare rumorosamente, salutando amiche all'altro capo della sala, scambiandosi posti a sedere e saluti. Le cameriere personali agitavano i ventagli, portavano e rimuovevano piatti, andavano a cercare fazzoletti. Anche l'una di primavera fece e ricevette complimenti, notando chi erano le diverse persone presenti e dove sedeva la più ricca, dove la più onorata, dove la più colta. Indicò con orgoglio la Hanlin e felice promessa: ecco il mio illustre suocero e quello è l'uomo che ha sposato questa stupida ragazza. Persino Marionetta, che serviva la sua padrona, sembrava a suo agio. In quell'atmosfera eccitata nessuno aveva notato che era muta. Quando fu portata in tavola la carpa, la nuora più anziana della casa dei Lin tirò per la manica l'una di primavera. Guarda! Il duca ha attraversato tutto il cortile per fare un brindisi con tuo marito. L'una di primavera si voltò di nuovo verso il paravento. Il duca aveva una pancia notevole, indossava una tunica viola intensa e un panciotto nero coi bottoni di giada fezui. I suoi occhi erano piccoli e neri, occhi che sembravano vedere tutto anche senza dover guardare. La prima intercettò soltanto brani di conversazione, ma quando gli uomini accanto smisero di mangiare e di parlare per ascoltare, sentì che il duca diceva: «Ti lascio impressionare, proprio come l'imperatore, quando davi credito alle stregonerie dei forestieri. Sei troppo giovane per capire che in un uomo la volontà può tutto. È la volontà ciò che conferisce forza e potere all'imperatrice vedova». «È per questo, allora, che il duca ci ha invitati questa sera», pensò l'una di primavera. Aveva intenzione di esaltare pubblicamente il gesso e maledire il frassino. Improvvisamente tutta la sua serenità sparì, cancellata dalla paura. Il duca si guardò intorno come per vedere chi fra di loro prestasse attenzione e proseguì. Un tempo l'imperatrice vedova non era che una delle centinaia di bellissime vergini manciù che risiedevano nella città proibita. In che cosa si distingueva dalle altre donne? Dalla sua volontà. Persino l'imperatore cadde in ginocchio quando lei gli rimarcò la sua mancanza di pietà filiale. Eppure non ha mai viaggiato su una di quelle macchine a vapore o sparato con un fucile. Comanda con la sua sola autorità morale. L'ho vista chiamare uccelli selvaggi dal cielo e farli appollaiare sul suo ventaglio a cantare. La vedova e l'impero trionferanno sui loro nemici. L'una di primavera ebbe un sospiro di sollievo quando udì la risposta di felice promessa. Mi auguro che le vostre parole diventino realtà, nobile ospite. Vorrei essere ottimista come voi. Ormai la voglia di chiacchierare era svanita. L'una di primavera finse semplicemente un po' di entusiasmo finché la cena finì e fu ora di iniziare lo spettacolo. Mentre venivano accese le lanterne sul palcoscenico, mandò Marionetta ad aiutare a servire il tè. Non c'era motivo che la ragazza dividesse le sue paure. Vai in giro, divertiti. Il duca probabilmente parlerà prima che cominci lo spettacolo. Marionetta sfiorò la spalla della padrona e si allontanò, oscillando aggraziata come le altre cameriere, benché i suoi piedi non potessero certo passare per gigli dorati. Subito dopo, gli uomini sotto di loro batterono le mani e urlarono «How! How!» E le signore si alzarono e si affrettarono verso il paravento traforato, seguite a ruota da una folla di schiave che portavano le loro sedie. L'una di primavera non aveva che da girare la sua per poter vedere. Sul palcoscenico il duca Lan salutava il pubblico con cenni del capo, rispondendo a chi lo ringraziava per la sua ospitalità. Il grande altare di un tempio si ergeva proprio dietro di lui, dominato da un dipinto a grandezza naturale di Quan Ti, il dio della guerra dal volto rosso, gli occhi sporgenti, le narici frementi. Sull'altare l'incenso ardeva nella ciotola sacrificale e alla tenda rossa di broccato sullo sfondo erano appese pergamene gialle con scritte a caratteri cubitali. Il duca si schiarì la gola. Il silenzio si trasmise da un tavolo all'altro come per un messaggio. Per il vostro divertimento, signore e signori, vi offriamo qualcosa di diverso. Quest'opera non è ambientata durante il periodo dei Tre Regni o ai piedi della Grande Muraglia. Non è ortodossa, ma neanche i tempi in cui viviamo lo sono. Viviamo in tempi di pericolo, sia interno che esterno, di guerra e di tradimento. Nell'ultimo anno le province settentrionali sono state colpite da inondazioni e carestie, dalle locuste e dalla siccità, poiché sono apparse all'indomani di concessioni allo straniero estremamente umilianti. Questi disastri sono segni inconfondibili del dispiacere degli dèi. Non esiste quasi un mu quadrato di territorio cinese sul quale non reclamino o non stiano per reclamare diritti uno di quei popoli dal naso grosso o i nani marroni. I tedeschi sono nello Shantung e hanno messo gli occhi sulle province nord-occidentali. I russi sono in Manciuria e hanno messo gli occhi sulla Mongolia. Gli inglesi sognano la valle dello Yangtze. I francesi sperano di accaparrarsi lo Yunnan e il Guangxi e gran parte del Kwantung. I giapponesi non sono soddisfatti della Corea di Formosa, degli Autung e delle Pescadores, ma vogliono il Fukien. Non c'è un solo porto fra i 9.000 lì di tutta la Cina che possa essere armato senza il consenso dello straniero. Non dobbiamo più restarcene con le mani in mano e lasciare che i barbari sconvolgano i venti e le acque del nostro amato paese. Ma noi siamo uomini di cultura, aborriamo la violenza e amiamo la pace, mentre i barbari considerano solo il profitto e il potere. Come possiamo liberarci di loro? Come? Come? Salmodiarono gli uomini. La risposta vi sarà data questa sera. Ospiti onorati, incontrerete coloro che hanno la benedizione del cielo e gli strumenti per parlare con gli stranieri nella loro stessa lingua, la lingua della forza bruta. Consentitemi di presentarvi i veri patrioti dell'impero, la società dei pugni di giustizia e di concordia. I gong batterono, i cembali risuonarono. Da tutti i lati della sala accorsero donne, uomini e ragazzi. Al rullo di tamburi si precipitarono sul palcoscenico. Le donne, coi capelli raccolti in una crocchia, indossavano giacche e pantaloni rossi e portavano lanterne dello stesso colore. Gli uomini e i ragazzi avevano turbanti rossi in testa, i codini avvolti e ripiegati su un orecchio. I colori delle corte casacche differivano, ma avevano tutte un disco nero con la scritta del nome della società di appartenenza dipinta davanti e dietro. Ciascuno portava in vita una fascia rossa e in mano una lancia o una spada adorna di banderuole rosse. Quando tutti si furono radunati sul palcoscenico, cadde un silenzio sovrannaturale. Non un suono, non un movimento. Il momento sembrò interminabile. Poi, uno dopo l'altro, le donne e i ragazzi cominciarono a muoversi, contorcendosi e voltandosi di qua e di là in un violento balletto a base di pugni e calci, sferrati a velocità fulminea e sottolineati da urla feroci. Scià! Scià! Scià! Uccidi! Uccidi! Uccidi! Il palcoscenico rintronava della loro furia. Con le spade e le lance gli uomini mimarono una battaglia urlando: colpisci verso il cielo, i suoi cancelli si apriranno, colpisci verso la terra, i suoi cancelli tremeranno, sostieni i Qing, stermina i barbari. Improvvisamente, com'era cominciata, la danza terminò. Una donna grossa, vestita di marrone, rimase al centro della piattaforma, stando diritta sui suoi piedoni grossi come quelli di un uomo. Gli altri si accoccolarono sullo sfondo, sollevando le braccia sopra la testa, la donna parlò. La sua voce era profonda, ipnotica. Gli uomini dell'Occidente ingannano gli dèi col loro comportamento, intonò. Poiché sono insolenti e offendono quel che vi è di più sacro, scatenando la collera del cielo e della terra, così che le nuvole di pioggia non ci visitano più. I missionari stregano coloro che ascoltano le loro bestemmie e chiunque beva il tè alla parrocchia muore con il cervello che gli scoppia dal cranio. Le monache che adorano Gesù cavano ai morti gli occhi, il midollo e il cuore per preparare medicine e ai bambini strappano gli intestini per trasformare il piombo in oro. Un'esclamazione soffocata salì dal pubblico e si udirono dei mormorii. Ma abbiate fede, presto! 8 milioni di spiriti guerrieri scenderanno dai cieli come un uragano e spazzeranno via dall'impero il flagello degli stranieri. Soltanto allora le piogge celesti torneranno a fecondare la nostra terra. Mentre lei indietreggiava, gli altri del palcoscenico saltarono in piedi urlando all'unisono e il fragore echeggiò per il cortile. Presto, presto, diffondete la notizia contro i pugni di giustizia e di concordia. Difensori del glorioso impero si infrangono lance e spade. Le pallottole non penetreranno nel loro sacro corpo. Non temete, unitevi a noi, sostenete i Qing, uccidete i barbari, sostenete i Qing, uccidete i barbari. All'improvviso vi fu di nuovo silenzio. Quasi tutti gli attori si voltarono e si diressero verso l'altare, lasciandosi dietro soltanto i 3 ragazzi più piccoli. Tracciando 3 circoli immaginari nell'aria, i ragazzi disegnarono un segno in ciascuno. Poi, con gli occhi chiusi, le palme premute contro la fronte, recitarono una frase inintellegibile e con la bava alla bocca crollarono come alberi abbattuti. Il pubblico gridò, pensando che fossero morti, ma altri li misero di nuovo in piedi ed essi rimasero così immobili. La donna corse verso di loro con una lancia, la scagliò contro uno, poi contro l'altro, ma quelli rimasero illesi. Prese allora una spada e menò un fendente contro di loro. I suoi colpi erano veloci, ma non più pericolosi di un vento leggero. Non una goccia di sangue fu versata. Infine prese un revolver, ne fece ruotare il tamburo e mirò a un'urna di ottone sull'altare. La pallottola la fece ruzzolare per terra. La donna si diresse fino al margine del palcoscenico e fece fuoco su uno dei ragazzi. La pistola fece fuoco diverse volte, ma i ragazzi non batterono ciglio. Mentre le pallottole cadevano ai loro piedi, gli altri attori trionfanti ripresero il balletto urlando: Scià, scià, scià, uccidi, uccidi, uccidi! Presto anche le donne fecero eco. L'una di primavera desiderò di non essere venuta. La faccia di sorella lì era diventata feroce come quelle dei contadini sul palcoscenico, gli occhi fuori dalle orbite come quelli di un pesce bollito. Le altre al suo tavolo e a quelli vicini avevano la sua stessa espressione. Perfino sua suocera aveva una brutta faccia. E poi quel grido: scià, scià, scià! Madre! Il suo urlo lacerante si levò sopra quella cacofonia. Madre! Veniva da qualche parte dietro di lei. Si voltò e vide Marionetta. Madre! Gridò ancora la ragazza. E poi rimase immobile. Il volto pallidissimo, gli occhi vuoti. Rapidamente l'una di primavera si guardò intorno. Era stata l'unica a sentire. No, qualcun'altra aveva udito. Ma tutte già rivolgevano lo sguardo verso il palcoscenico. Che cosa contava una serva eccitata dopo tutto? L'una di primavera diede un'occhiata alla suocera. Anche Porpora appariva ipnotizzata dallo spettacolo, come le altre donne al suo tavolo. Scivolò via e si affrettò a raggiungere Marionetta. Le lacrime scivolarono sulle guance della ragazza, macchiando la blusa nuova di seta. L'una di primavera l'abbracciò e la guidò rapidamente verso l'anticamera, lontano da tutti. Lasciò un messaggio per Gioia di Loto alle serve in fondo alla scala e chiamò le portantine. Ma quando vennero, Marionetta si aggrappò a lei finché l'una di primavera sussurrò: «Vengo con te». Salirono insieme e rimasero sedute vicine. Le grida di «Scià! Scià! Scià!» le seguirono nella notte, smorzandosi man mano che la portantina si allontanava, oscillando nelle strade illuminate dalla luna. Quando ebbero raggiunto il cortile delle udienze della casa dei V, l'una di primavera mandò subito a casa i portatori ingaggiati e spedì il custode del cancello a cercare Ciccia. La serva arrivò di corsa, i capelli spettinati. «Che cosa è successo? Perché sei sola?» Aprì la portantina e rimase a guardare allibita. «Aiutami! Ho dovuto portarla a casa. Ha parlato! L'ho sentita chiamare 3 volte madre! Si aggrappa a me come se fossi una bambina!» Con dolcezza la convinsero a staccarsi dalla padrona e a scendere dalla portantina. Ma appena l'una di primavera fu a terra, Marionetta intrecciò il suo braccio a quello di lei, restandovi aggrappata come un'edera anche dopo che ebbero raggiunto la minuscola camera che una volta veniva usata come dispensa. Là, mentre Ciccia bolliva l'acqua per il tè, l'una di primavera cullò la serva fra le braccia, dondolandola avanti e indietro e sussurrando le parole rassicuranti. Quando il tè fu pronto, le due donne riuscirono a introdurre la tazza fra i denti della ragazza, ma dopo pochi sorsi lei respinse la bevanda. All'improvviso cominciò a parlare. Il suono che usciva dalle sue labbra sembrava giungere da molto lontano ed era incolore come il salmodiare distaccato dei preti. L'una di primavera e Ciccia dovevano aguzzare le orecchie per sentirla, senza osare muoversi nel timore che ogni suono o gesto potesse interrompere il racconto. Come potevamo immaginare quel che sarebbe successo? Avevamo tanta fame. Le inondazioni avevano spazzato via il miglio. Mia madre cucinava sempre più acqua e meno grano. I suoi seni erano asciutti e il mio fratellino piangeva per la fame. Impegnammo tutto quel che avevamo per comprare del cibo nel villaggio. Tutta la popolazione di ceneri sapienti andava a raccogliere radici e funghi selvatici. Io lo detestavo, non trovavo mai abbastanza roba da poterla dividere con un'altra famiglia e così dovevo andar sola. Là c'era un branco di cani, la maggior parte fu uccisa e divorata, gli altri fuggirono, mangiavano carne umana. Nessun coolie osava dormire per strada. Un giorno sentimmo che nel villaggio qualcuno distribuiva cibo. Andammo tutti a vedere, portando con noi le ciotole, chissà mai. Era vero. Vicino al crocevia principale, accanto al tempio, c'era una fila di persone, ciascuna con una ciotola in mano. Davanti a tutte un peloso. Portava un abito lungo come un esattore delle tasse. Aveva i capelli color paglia e i denti grossi come quelli di un asino. Ci fece cenno di metterci in coda. Avevo paura, ma sentivo odore di zuppa di cavoli e mi misi subito dietro mio padre. Alla fine mi ritrovai davanti al diavolo. Immerse il mestolo nel calderone, riempì la mia ciotola e dentro c'era un pezzo di cavolo e la zuppa sapeva di grasso. Quando ebbi vuotato la ciotola, corsi in fondo alla fila per ritentare la fortuna. Il diavolo me la riempì 3 volte. Quando il calderone fu vuoto, il diavolo ci raccontò delle storie. Nessuno voleva apparire ingrato, così restammo. Disse che era un uomo di chiesa, venuto per parlarci del Dio falegname. Noi capivamo ben poco, ma facevamo tutti di sì col capo. In fondo, che male poteva fare un Dio falegname? Tutti gli dèi tornano utili un giorno o l'altro. Quando ebbe finito, distribuì dei fogli stampati, ciascuno di noi ne prese uno e lui promise di tornare il giorno seguente con altro cibo e altre storie. Andammo a casa e usammo i 3 fogli per coprire una finestra rotta. Quella sera vennero a casa nostra dei forestieri. Pensammo che fossero dei banditi. Mia madre e io ci nascondemmo nella stanza sul retro. Il capo disse che cercavano dei traditori e delle spie chiamati adoratori di Gesù. Mio padre scoppiò a ridere. Ah, allora sei proprio fuori strada. Non vi sono persone del genere qua dentro. Comunque, guarda pure. Misero tutto a suo quadro. Quando trovarono lo specchietto che faceva parte della dote di mia madre, lo spaccarono dicendo che era un oggetto straniero. Improvvisamente mia madre mi mise in braccio il piccolo. Scappa e nasconditi, mi sussurrò. Non tornare finché non ti chiamo. Muoviti! Aprì la bocca per chiedere il perché. Lei mi schiaffeggiò. Va, scappa, nasconditi, bada tuo fratello. Io corsi fuori dalla porta posteriore nei campi. Non mi guardai mai indietro. Trovai un fosso e vi strisciai dentro. Tenevo ben stretto il piccolo. Lui rideva perché gli piaceva correre e saltare e aveva la pancia piena e presto si addormentò. Sentii abbaiare un cane. Non vi fu nessun altro suono finché scese la notte. Poi sentii un grido cadenzato, scià, scià, scià, seguito da urla. Erano come quelle di maiali, ma nessuno aveva più dei maiali. Volevo correre più lontano, ma era buio e non volevo allontanarmi troppo, altrimenti non avrei udito mia madre quando mi avesse chiamata. Così aspettai. Le grida diventarono sempre più forti, scià, scià, scià. All'improvviso i banditi furono molto vicini, tenevano le lanterne in alto sopra la testa. Non sapevo che fare. Sentii mia madre sussurrare: "Shh, non uscire, resta nascosta, qualsiasi cosa succeda." Poi urlò: "Aiuto, aiuto!" saltando fuori e correndo lontano da me. Non l'avevo vista dietro l'erba alta. Gli uomini con le lanterne urlarono: "Eccola là, e uccidila!" e la inseguirono. Le loro urla svegliarono il mio fratellino. Cosa potevo fare? Raccolsi una manciata di fango per chiudergli la bocca. Li sentii agitarsi fra i cespugli. Uno di loro urlò: "L'ho presa!" La chiamarono progenie bugiarda di una tartaruga. Dissero che era una pelosa secondaria, una spia, una donna che beveva le parole del diavolo. Mia madre li supplicava: "Sono cinese!" gridò infine: "Sputo sugli stranieri!" Uno di loro chiese: "Se non sei una pelosa secondaria, perché hai attaccato i loro fogli alla finestra?" "Per non far entrare l'aria," rispose lei. Le dissero che mentiva. Le dissero che aveva avuto quei fogli dal diavolo. L'avevano vista mentre lui glieli dava. L'avevano vista bere la sua zuppa. Poi mia madre urlò e urlò e dopo un po' vi fu silenzio. I banditi si allontanarono verso il villaggio. Avevo troppa paura di muovermi. Aspettai finché non li sentii più. Poi ricordai il mio fratellino. Era rimasto molto tranquillo, gli tirai via la coperta dalla faccia. Era freddo. Aveva la bocca e il naso incrostati dal fango. Era morto. Cercai di tirarmi in piedi, ma le mie gambe tremavano come fuscelli. Così strisciai, trascinandomi dietro il corpo. Venne l'alba. Nel fango vidi la testa di mia madre. Le lasciai il piccolo accanto e corsi verso la nostra casa. Vidi qualcuno in piedi fra le canne, pensai che fosse uno di loro, caddi. L'uomo stava immobile, come se anche lui si nascondesse. Strisciai più vicino. Era la testa di mio padre, infilzata su un palo fra le canne. Il suo corpo giaceva per terra, coperto di mosche, tante, tante mosche. Trascinai per i piedi il suo corpo, fin dove avevo lasciato il piccolo e mia madre. Poi tornai a prendere la sua testa. Cercai di staccarla dal palo, ma non vi riuscii, così dovetti afferrarla per la coda e strapparla via. Scavai con le mie mani e quando la buca fu abbastanza grande, vi trascinai dentro il corpo di mio padre. Lo raddrizzai e misi la testa al suo posto, attaccandola al corpo col fango. Alla sua destra misi il piccolo e poi presi la testa di mia madre e la misi alla sua sinistra. Cercai il suo corpo, trovai il tronco, poi le gambe, il braccio destro, quello sinistro, li trasportai nel fosso e li rimisi insieme. Mancava il suo piede destro, non potevo lasciarla entrare nell'altra vita senza quello. Come poteva camminare con un solo piede? Cercai e cercai e infine lo trovai quasi sepolto. Tirai sulla gamba del suo ciancò e incollai il piede alla caviglia. Li ricoprii in fretta con del fango, sempre di più finché furono ricoperti abbastanza da impedire ai cani di trovarli. Il giorno dopo me ne andai, camminai e camminai per la strada. I cani si ingrassavano. Così come aveva cominciato, Marionetta si interruppe e il silenzio avvolse la stanza. La fiamma della lampada a olio lentamente morì. E le pareti e il soffitto svanirono. Improvvisamente urlò. Il suono si fece acuto, poi si smorzò e salì di nuovo, secondo un rituale antichissimo. Gli occhi che erano stati così vuoti si riempirono delle lacrime del lutto. Oh, padre mio! Oh, madre mia! Oh, fratello mio! Oh, mio cuore! Oh, mio fegato! Oh, mia milza! Perché mi avete lasciata? All'ora del topo dormiva già, mentre Ciccia la vegliava. L'una di primavera aspettava fra le ombre del cortile delle udienze, le mani infilate nelle maniche della tunica. All'improvviso si era alzato un vento che scuoteva le imposte e piegava i bambù. La polvere faceva mulinelli sotto le porte. Tendeva l'orecchio cercando di intercettare rumori di passi sul hutung oltre il muro del giardino. Udiva soltanto il fruscio degli alberi e il legno che sfregava contro il legno. Aveva deciso di scusarsi immediatamente per il suo comportamento alla festa, ma di non aggiungere altro. Felice promessa avrebbe deciso se raccontare agli altri la storia di Ceneri Sapienti. A quel pensiero, le parole di Marionetta le risuonarono di nuovo nella mente e il cortile vuoto si popolò di fantasmi sanguinanti. Chiuse gli occhi, si mise le mani sulle orecchie, ma non riusciva a liberarsene, così come non poteva impedire al vento di entrare. Quando guardò di nuovo, il custode del cancello si inchinava alla portantina del Hanlin. Silenziosamente, a uno, i membri del clan scesero e silenziosamente, uno dopo l'altro, si allontanarono verso i loro alloggi. Nessuno parlava. I passi di ognuno erano silenziosi, impercettibili. Istintivamente capì che non era quello il momento per presentare le sue scuse. Persino alla luce della luna, lesse la paura sul volto di ognuno e rimase nascosta finché tutti furono passati. Poi corse incontro a suo marito. Che cosa è successo? Perché sono tutti così strani? Non c'eri anche tu? Chiese. Non hai visto e sentito? Naturalmente non sapeva che lei era partita prima. Lei spiegò rapidamente il perché. Per tutto il tempo egli si limitò ad annuire come se già avesse udito la storia. Quando fu finita, disse soltanto: Povera creatura, povera creatura. Ti prego, marito mio, ora dimmi cosa è successo dopo che ce ne siamo andate. Lui si strinse nelle spalle. Oh, non è importante, non è nulla. Deve essere qualcosa di inimmaginabile, pensò lei. Marito mio, io sono tua moglie, devo saperlo. Lui annuì, ma non parlò finché non ebbero raggiunto la loro camera. Allora le prese una mano. Tu hai visto quasi tutto, ma al termine dello spettacolo il duca è tornato sul palcoscenico. Ha fatto un altro dei suoi discorsi e quando ha parlato del nemico ha puntato il dito contro di me.